La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani. Parigi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metrorotte, ladri e giornalisti, tornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte è falso gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto, tutto un po' più bello. Parlare in una macchina davanti a un portone, e alle 4:30 fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte, e quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuna originale, sapere che nel mondo nessuno è normale, ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa di ogni colore. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire